Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli verso la chiusura della procedura europea contro il deficit eccessivo dell'Italia, una decisione che può valere da 8 fino a 12 miliardi di euro. Finalmente una buona notizia per il paese. Non nascondono la soddisfazione da Palazzo Chigi di fronte alle prime indiscrezioni da Bruxelles in vista del cruciale appuntamento di mercoledì con le raccomandazioni della Commissione europea. È praticamente certo che dopodomani il commissario agli affari economici Olli Rehn chiederà la chiusura della procedura di infrazione contro l'Italia per deficit eccessivo. Quest'anno Roma dovrebbe chiudere con un deficit al 2,9% del PIL, un soffio sotto il paletto imposto da Maastricht. Secondo quanto trapelato dalla bozza della Commissione, Rehn lancerà altre 6 raccomandazioni al nostro paese. La prima e principale riguarda l'azione di consolidamento di bilancio, che non deve essere allentata, soprattutto in presenza di un deficit al limite del consentito. A seguire un vero e proprio piano di riforme: rendere più efficiente la macchina della pubblica amministrazione, riformare il sistema bancario, maggiore flessibilità del mercato del lavoro spostando il baricentro della contrattazione sul livello aziendale, politiche formative dei lavoratori più attente alle esigenze del mercato del lavoro, infine la riduzione della pressione fiscale su impiego e imprese, insieme a una maggiore apertura alla concorrenza del mercato dei servizi. La raccomandazione della Commissione andrà all'approvazione dei leader europei a giugno. La chiusura della procedura dovrebbe sbloccare importanti risorse per crescita e occupazione stimate in almeno 8 miliardi. Domani invece occhi puntati su Parigi. Francia e Germania presenteranno una New Deal proprio sull'occupazione giovanile. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E mentre a Parigi ci sono state manifestazioni e scontri contro la legge che ammette i matrimoni e l'adozione da parte di coppie gay, a Cannes la Palma d'Oro veniva attribuita a Vidadel, una storia d'amore e di passione tra due ragazze. Insomma, una Francia a doppio binario, proprio come l'Europa su questi temi. E allora Laura Bettini ha sentito Yuris Lavrikovs della ILGA Europe, l'associazione che si batte per i diritti delle minoranze sessuali. La crisi economica ha una grande influenza sugli sviluppi delle società. Quando le tasche sono vuote, la gente cerca rifugio nei valori tradizionali, conservatori, e le minoranze sessuali sono un bersaglio facile, un gruppo vulnerabile, e così si spiega quello che succede in Francia. Così Yuris Lavrikovs nel commentare la cronaca da Parigi e presentando l'ultimo rapporto Rainbow di ILGA, la mappa dei diritti e delle tutele offerte dai paesi europei, non solo quelli dell'Unione, alle minoranze sessuali. Le migliori garanzie sono quelle offerte dalla legislazione britannica, che soddisfano il 77% delle condizioni contro la discriminazione e per l'uguaglianza poste dall'associazione. Le peggiori dell'Europa 27, quelle della Bulgaria, che ne prevede solo il 18%, ma lì no anche Lituania, Lettonia ed Estonia. Quest'ultima è la migliore delle tre, ma non supera il 30%. Non si faccia però a questo punto la facile ripartizione tra est e ovest d'Europa. La normativa ungherese è molto avanzata, il paese totalizza il 55% dei punti, anche se nella pratica, dice l'associazione, la situazione non è poi così rosea, mentre quella italiana arriva solo al 19%. Meno della bacchettona Polonia, 22%, meno di Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, e anni luce da Francia, Spagna e Portogallo, oltre il 60%. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È giornata di Consiglio Affari Esteri oggi a Bruxelles, dunque molte le notizie di questo ambito. La prima riguarda la Libia: Gheddafi esportava e sosteneva il terrorismo, la nuova Libia non lo tollera, così il premier libico Ali Zeidan Mohamed dopo un incontro con il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy. E ancora si intensifica il lavoro diplomatico in vista dell'organizzazione nel mese di giugno a Ginevra di una nuova conferenza internazionale di pace che ha per obiettivo quello di mettere fine al conflitto siriano. All'indomani dell'annuncio di Damasco sulla sua partecipazione sono previste oggi 2 riunioni a Bruxelles e Parigi. Dall'altra parte la coalizione dell'opposizione siriana ha registrato un nuovo fallimento nel tentativo di unificazione dopo l'esito negativo di un voto sull'allargamento ai nuovi membri. Ancora, la Commissione europea indaga su Apple per verificare se Cupertino stia usando o meno politiche di vendita anticompetitive e restrizioni tecniche sull'iPhone per affermarsi e tagliar fuori gli altri produttori di cellulari. Lo riporta il Financial Times, citando alcune fonti secondo le quali l'indagine è stata avviata in seguito alle proteste degli operatori telefonici. E ora sentiamo il nostro consueto punto da Federico Taddia, il consiglio di oggi. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio segnalare una particolare esperienza finalizzata a comprendere i meccanismi e le dinamiche degli organi istituzionali dell'Unione. Oltre 100 giovani tra i 18 e i 30 anni avranno infatti la possibilità di scoprire come funzionano la Commissione, il Parlamento e il Consiglio europeo attraverso una simulazione di 5 giorni. L'iniziativa, denominata Modello Unione Europea 2013, si terrà a Granada, in Spagna, dal 2 al 6 ottobre, ma le iscrizioni scadono il 30 giugno. La partecipazione è gratuita, è richiesta solo una buona conoscenza dell'inglese, interesse per i temi politici e la voglia di mettersi in gioco. Per informazioni www.meu-granada.org.es. Ecco dunque nuove proposte di formazione, l'inglese sempre indispensabile. Vi ricordo che trovate queste indicazioni, questi suggerimenti su radio24.it, se aveste dubbi, domande ulteriori, Europa ad radio24.it. Con questo è davvero tutto, in regia Filippo Aureggi, Gigi Donelli al microfono, l'appuntamento è per domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.